through him revealing himself. E mentre cammini osserva cosa fa la testa nello spazio. Be aware of the movement of your head. Interpoggi il piede destro, sinistro. And there are a series of things that the head does, possibilities of movement for some people, movement of the head bending to the right and left. Alcuni muovono la testa piegando la destra e sinistra. Turning a little bit to the left and right. La ruotano un po' a destra e a sinistra. Or moving forward and back. Davanti e indietro. And sometimes it's not so clear to be aware of what the head is doing, because normally when we walk, we're walking somewhere, the head is more or less going forwards, but yet the body is doing a series of movements relative to the head. A volte non si sa cosa fa la testa fa un movimento Adesso chiariamo i movimenti della testa. Feel the part of the right foot that touches the floor. Relativo al piede destro. Senti come appoggia il piede destro. The part of the heel. Because most of us walk with the heel first. Appoggiando per prima il tallone. Feel part of the heel that's touching the floor. Senti quale parte del tallone. And feel the shift of pressure as you walk across the or underneath the body. Tocca il pavimento. E come si sposta la pressione sul piede. Trace out from your awareness the change in pressure across the foot. Fai attenzione come cambia la pressione lungo il piede. Small tone. The amount of pressure on the big toe. Vale il mignolo dell'alluce. Some toes don't touch or hardly touch at all. There's a sense of pressure on the ball of the foot. E poi alcuni non toccano le dita ma solo il metatarso. And what the head does. Senti cosa fa la testa. Having weight on the right foot and the weight is on the heel and moving toward the forefoot. Senti cosa fa la testa mentre porto il peso sul piede destro dal genone alla dita. Toward the foot, over the foot. As you're on that foot or away from the foot. Put your right hand over the top of your head and hold the left side of your head with the right hand. Metti la mano destra sopra la testa. Taking your head with the right arm, but beyond the head, form a unit. And you bend the head a bit to the right as you have weight on the right foot, as you're stepping on the right foot. E adesso poi la mano destra sulla testa, mentre hai peso sul piede destro, piega verso destra. And you're stepping on the right foot. You're taking the bending the head sideways to the right, toward the right foot. And as the pressure goes off of the foot, the head comes back to the head. And allora, then il peso a while sul piede destro, inclini la testa destra, e quando stacchi il piede, torni con la testa al centro. Allow the right shoulder to be soft enough so that you feel that it can move. Permette alla spalla destra, alla scapola destra, di essere soffice di muoversi. And feel that the ribs on the right side are getting closer together. Fai attenzione. Head and the right shoulder move down. Ti accorgerai che le coste del lato destro si avvicinano. touch the ribs of the right thigh, e che la scapola scende, se metti la mano sul lato sinistro, nelle costole sentirai che si allungano. E sul lato destro, metti la mano sinistra sul lato destro, sentirai che le costole si avvicinano. Thinking of the right foot, thinking of the movement of the head, the sense of where the head is in space, as the right foot is making contact with the ground. E conti mentre il piede destro appoggia a terra, inclina la testa destra. Over the top of your head, over the right side of the head, bend your head to the right as your right foot is stepping on the ground. As you did before, you're not taking the head to the left, but to the right. Bend the head to the right as the right foot is stepping on the ground. E continua. Right to the left to the right, and then the head comes back to the middle, more or less. And feel the difficulty doing with the left arm. Adesso metti la mano da sinistra sulla testa e inclina sempre la testa a destra, mentre porti il peso sul piede destro. Sentirai che difficoltà trovi nella spalla e nel lato sinistro. L'appoggio del piede destra a terra, il movimento della testa, come interiorizzi, fai passare il movimento in tutto il corpo. Try the opposite thing now. So you put your right arm over the top of your head, over the left side of the head there. Adesso cambia. Bend the head to the left as the right foot is stepping on the ground. And see if that feels easier than the other way of doing it. Adesso, quando appoggi il piede destro, hai la mano destra sulla destra, e quando puoi mettere la terra, inclina la testa a sinistra. Right shoulder is coming up, the left shoulder going down, the left arm lengthening. La spalla destra quindi va in alto, quella sinistra in basso, il braccio sinistro salendo in basso. You bend the opposite, you're bending the hand down to the left as your weight is coming on the right foot. Quando il piede è sul piede destro, inclini la testa sinistra. Cammina normalmente. Osserva come cammini, come il peso sul piede destro ora. Cambia la direzione del cammino, vai indietro. Harder for me than for you. Do the same thing with the left arm over the top of your head. Over the right side of your head with your left hand. And again, bend the head to the left as you're stepping the right foot on the floor, on the ground. Bene, adesso ancora una volta, ma in modo diverso, right mentre porti il peso sul testa e inclino mia testa a sinistra. Appoggio il piede destro e inclino mia testa a sinistra. Con le mani sinistra sul tavolo. The distance between the right ear and the right hip joint is increasing as you do that. And you have a sense as you do that of being able to stand taller in a way on the right leg, or is it the right leg we're getting longer? Ti accorgerai che la gamba destra, in questo caso diventa lunga. The right foot can assist you with the feeling of bending the head to the left. Che l'orecchio sarà lontano dall'altra destra, l'orecchio destro, e che quindi puoi stare con più facilità sul piede destro allungando tutto il lato destro. Again, walk normally. Cammina normalmente. Sense the right foot as you walk. Fai attenzione a come appoggia il piede destro. The right knee and the right hip joint. And feel come si muove il ginocchio, l'anca destra. I'm using that leg. If at any time you feel any tiredness, then you can go ahead and just rest for a while. Ogni volta che ti senti un po' stanco, stanca, fermi, puoi sedere, sdraiare. And what feels more appropriate as you're stepping on the right foot to be bending the head a little to the right? Which is one of the possibilities. Quando porti il peso sul piede destro, inclini la testa a destra. Try it the other way again, of bending the head to the left a little as you step on the right foot. Prova entrambe le possibilità. Cammina un po' inclinando la testa a destra quando appoggi il piede destro e inclinandola a sinistra quando appoggi il piede destro. Which makes more sense? Qual è? Explore è più sensato per te? That something altogether unexpected happens with the head. Now, put your right hand over the top of your head to get a hold of the left side of the head, and this time, bend the head to the right with the right arm as the right foot is lifted off the ground. Benissimo, adesso metti la mano destra sopra la testa e prendi il lato sinistro. When the foot goes back to the ground, then the head comes back to the middle. So the head bends to the right as the foot is lifting. E questa volta inclini la testa destra quando stacchi il piede destro. Lifting like that is the right side of the pelvis also lifting. E poi torni al centro e appoggi il piede. Torni al centro con la testa. And you can feel if you touch with your left hand the right side of the rib cage, you can feel that there is the right side of the rib cage is shortening considerably. Se metti la mano sinistra sul lato destro del torace, ti accorgerai che si accorcia molto. Quindi l'anca si solleva verso il volto, il gomito scende verso l'anca. As natural as you can, so as strange as it might seem, it's very to be done in a subtle enough way that people would know you were. Rendi il movimento più fluido e normale possibile e continua volgendo col braccio destro la testa a inclinare la testa verso destra mentre stracchi solleva per fare il passo il piede destro e la gamba piega e cammina normalmente. And as you walk around, I'm seeing a number of people, the right shoulder is starting to move in a very different way. Cammina e ti accorgerai che la spalla destra comincia a muoversi in modo diverso. Now put your left hand over the top of your head. Adesso metti la mano sinistra. You bend the head to the right. Sopra la testa. The left arm, as you're lifting your right foot. E adesso per la mano sinistra, inclini la testa destra. Stop coming to the piede destro. Bending the head to the right as you lift the right foot. Same thing we did before. Quando stacchi il piede destro, inclini la testa destra. E poi appoggi il piede e raddrizzi la testa. It may take a while, a number of these movements, to get the feeling of how to coordinate. più ci mette un po' di tempo per capire come coordinare questi movimenti. Non sono abituali. Inclini la testa destra, mettere stacchi il piede destra. Ora ci prendo il piede e raddrizzi la testa. We may not even be aware of learning at the time while we're doing this. And among them is that we're getting clearer about what happens throughout oneself in the interval of the walk when the foot is off the ground and in the interval in the walking when the foot is on the ground. L'importante è imparare a rendersi conto di essere consapevoli di quello che succede nella camminata mentre stacchiamo il piede. E nell'intervallo quando lo riappoggiamo. Maybe let's change direction again. Cambia di nuovo il senso, camminare indietro. Okay. Braccia lungo i fianchi. Now let's try the opposite possibility. So put your right hand over the top of your head, get a hold of the left side of the head. And now this time, as you lift your right foot, bend the head to the left. Adesso facciamo la possibilità inversa, appoggi. And organize the movement in such a way that you feel it's the act of lifting the foot which helps to push the head to the left. Adesso appoggi con il braccio la sua testa, prendi parte sinistra della testa, inclina il braccio destro la testa sinistra mentre sollevi il piede. E il sollevare il piede spinge a inclinare la testa destra. A sinistra. Notice if it really is a sideways bending of the head that you're doing, or are you tending to turn the head a bit? Fai attenzione se effettivamente un'inclinazione laterale della testa o la ruoti. Osserva come si allunga il fianco destro. Experience how normal has different meaning for you kinesthetically. Cammina normalmente. Osserva quel cambio ora. Now the same thing. Put your left hand over the top of your head and bend the head to the left as you lift the right foot. Each time you lift the right foot, bend the head to the left. That's it. E ancora una volta, il braccio destro attorno alla testa e il piede destra a sinistra quando stacchi il piede destro. Try the other way to the right again. Bend the head to the right each time you lift the right foot. E adesso fai di nuovo il momento precedente, inclina la testa destra quando stacchi il piede destro. If you make small movements, it's easier to coordinate. Se fai movimenti piccoli sono più facili da coordinare. Cammina nuovamente, normalmente. As you walk, feel what's happening as you're stepping with the right foot on the ground. E osserva cosa succede man mano che passi con l'appoggio del piede sul pavimento. Sense the movement in the head. Osserva il movimento della testa. And sense the movement in the right shoulder. As you step in on the ground with the right foot, is the right shoulder at the same level in space, or is it moving up or down? E osserva il movimento della spalla quando appoggi il piede per terra, la tua spalla è su e giù. Quando appoggi il piede, la spalla va verso il soffitto o verso il pavimento. La spalla destra. Now we've done absolutely symmetrical movements on the two sides of the body. But can you feel a difference between the way the right foot feels on the ground compared to the left foot? The attention has been asymmetrical, but the movements have been the same. Maybe take a little rest on your back and lying in a row on the floor, just to take a little break at this point, because... Un movimento simmetrico nelle due parti, però il modo di portare l'attenzione è stato diverso, abbiamo portato sulla destra. Adesso magari vi sdraiate, osservate un po' l'appoggio. Those of you who are doing this walking at the beach, you can just keep walking or lying down on the sand. Come sei appoggiato a terra. Now, as you lie, stretch out your legs. Allunga le gambe. Your arms symmetrical, and see the right foot with your mind's eye. Osserva come adesso il piede destro rispetto al sinistro. And now imagine that you're walking. Ora immagina di camminare. That you could look at yourself from above, and if there were a camera placed above your head, and you could look down at your head and down through your body to see your feet also moving as you walk. E adesso immagina che tu sei in piedi al sopra di te, che ci sia una specie di videocamera che riprende te e vede sopra la tua testa e i piedi mentre cammini. Trying to see where your head moves in relation to your right foot as you walk. E quando cammini, immagina di riuscire a vedere come si muove la testa in relazione al piede destro. And if you think of it, you'll realize that in part of the walking, the foot is in front of you, and in part of the walking, the foot is behind you. E se osservi che appoggiare in parte del cammino il piede al davanti di te, la testa, in parte del cammino è dietro di te. Qual è il movimento della testa in relazione al piede destro? Because later we're doing functional integration, and we help guide people's movement in walking, guiding the movement of the head as they walk. We need to know what to do to help the person organize the movement of the head, in a certain relation to the feet, where it's comfortable and reliable. Adesso lentamente alzati. Osserva come stai in piedi. When you get up and you stand, notice how you stand on two legs and the feeling of the two feet as you stand there. Come batti il piso sui due piedi. And sense where the head is in relation to the two feet. Dove la testa in relazione ai piedi. An equal distance. distanza uguale tra due piedi o sia più su un piede o l'altro. E adesso continua a camminare. As you walk, e mentre cammini, senti la pressione del piede destro a terra. And notice as your weight is shifting on the right foot from the heel in the direction of the forefoot, does it feel as if you're turning your head a bit to the right or to the left? E nota se mentre sposti il peso dal tallone alla punta del piede destro, la testa ruota a destra o a sinistra. E naturalmente puoi farlo in entrambi i modi. Metti la mano destra sopra la testa. Stepping on the right foot. Turn your head to the left. In other words, your right elbow comes forward as the pressure on your foot is moving forward from the heel toward the forefoot. E adesso metti la mano destra sulla testa, come detto, e mentre sposti il peso sulla testa. Moving from the right heel to the right forefoot. Giri la testa sinistra con la mano destra. Your head is turning to the left. La testa gira a sinistra e il gomito destro viene un po' avanti. And then, of course, your head comes back to the middle so that you can again do the same movement. E poi torni al centro e ricominci il movimento. And interestingly, as the pressure is moving from the heel toward the forefoot, the right foot, in other words, the pressure is moving forward in the foot, the foot is moving behind you. And the elbow is moving forward in the opposite direction to the foot. È interessante che la pressione va dal tallone avanti e dita del piede e quando il tallone si stacca il gomito avanti. Quindi quando il tallone va indietro, il gomito destro va avanti. Camminati normalmente per un po'. And do the same thing with your left arm now. The left hand and right side of your head, turning the head to the left as your weight shifts from the right heel to the right forefoot. E adesso metti la mano sinistra sulla testa e quando porti il peso sul piede destro con la mano sinistra giri la testa sinistra. Allow the shoulder blades to move freely, the left shoulder blade moving back and the right shoulder blade moving forward, not bending the head, but turning it down. Not bending, turning. Ma permetti alle spalle e alle scapole ora di ruotare, quindi ruota la spalla sinistra indietro, mentre la testa va avanti, hai la mano sinistra sulla testa, gira la testa sinistra, mentre appoggi il piede destro. E questa volta ricorda che le spalle non si muovono su e giù, ma ruotano avanti e indietro. Some of the variations of the eyes, but because the first thing is to get clear about some of these basic movements of the head and the foot. Walk normally now. And as you walk, sense the, you feel some component of turning as your weight is shifting, stepping on the right foot. Camminando normalmente, ora osservo se c'è una piccola componente di rotazione del capo, della testa, quando porti il peso sul piede destro. Let's try the opposite way. Put your right hand over the top of your head, over the left side of your head. And facciamo step on the right foot. Turn your head to the right. Adesso la mano destra sopra la testa e quanto il peso sul piede destro, ruoti la mano destra, la testa destra. The right elbow is also moving back. Ora quando il piede si muove indietro, anche il gomito destro si muove indietro. Yeah, we established before that as you're stepping on the right foot, although the pressure is moving forwards from the heel to the forefoot, the right foot is being left behind you. Quindi appoggi, hai le mani sulla testa, appoggi il piede destro e la mano che vai avanti, ruoti la testa verso destra. Quindi man mano che hai portato il peso, stacca il piede dopo il destro. Right elbow moves back as you're stepping on the right foot. Quando cammini sul piede sinistro destro, il gomito destro va indietro. Very small movements will be effective. You don't need to make big movements. It's not for flexibility. Deve essere un movimento molto piccolo perché sia efficace. Osserva se respiri. Cammina normalmente. Let's change direction. Cambia direzione, camminare indietro. Let's do the same thing with the left hand over the top of the head. Right side of the head. Turn the head to the right as you're stepping on the right foot. And feel if it's more difficult or easier with the left hand over your head like that. Ora mette la sinistra sulla testa. Free and easy movement. The right shoulder is moving back. E quando porti il peso sul piede destro, gira la testa verso destra. And then appoggi il piede destro e la mano sinistra gira la testa destra. Back of your right hand on the rib of the right side, you'll feel how there's a twist in the ribs. E veramente alla spalla destra, mentre per questo movimento muoversi indietro, e osserva il momento di dorsione nel torace. Quindi porta il peso sul piede destro, la mano sinistra sulla testa, gira la testa destra, la spalla destra va indietro, e il torace un po' si vuota. Osserva se tieni libero il collo. Un momento piccolo, senza forzare, e cammina lentamente e normalmente. Feel the sensation of the right foot on the ground, the softness of the right foot. Osserva come appoggia il piede destro, se è un movimento soffice. Okay, we'll try the other way. Put your right hand over the top of your head to hold the left side of the head. Now as you're lifting the right foot off the ground, turn your head to the right. Adesso facciamo il movimento opposto. Metti la mano destra sopra la testa e quando giri la testa a destra, stacca il piede destro. Osserva se lascia le spalle e le braccia. Around the vertical axis, or what kind of turning is it? Lascia la testa e ruoti attorno all'asse verticale. And what is doing the turning? Is with some, there's a lot of movement in the neck, and with some, the major part of movement in the rib cage. The sound is practically no movement in the ribs, and all of it in the neck. Per qualcuno sarà molto movimento nel collo, per qualcuno movimento soprattutto nelle braccia. Osserva come fa il movimento. Walk normally for a while, and as you walk, sense if the head spontaneously doing a kind of turning movement. Rotational movement. Cammina cammina normalmente per un po' e osserva se adesso la testa fa una sorta di movimento di rotazione. E se ruota ugualmente a destra e a sinistra o di più da una parte o dall'altra. Now put your left hand over the top of your head and turn the head to the right as you're lifting the right foot off the ground. E adesso metti la mano sinistra sulla testa e ruota la testa destra quando stacchi il piede destro. Now turn the other way, or as you turn the head to the left as you're lifting the right foot off the ground. And see, that way easier. Yes. E adesso ruota la testa a sinistra. You're lifting the right foot off the ground. Quando stacchi il piede da terra. Left elbow to the back. Ed osserva se è più facile ruotare la testa a sinistra quando stacchi il piede destro da terra. You're doing the opposite. Okay, that's right. Yeah, but you slip into doing it from the foot without the ground rather than jumping. Try the opposite again. You turn the head to the right as you lift the right foot now. E adesso di nuovo fai il movimento opposto, gira la testa destra quando stacchi il piede destro. So as you lift the right foot, when you turn the head to the right shoulder blade goes back. Quindi quando giro la testa destra, la spalla destra va indietro. And now try turning the head to the left again as you lift the right foot. So as you're lifting the right foot, the right shoulder blade is moving forward. Quando vai a sinistra, la spalla destra avanti. One of the ways is much Let's reverse direction. Now, put your right hand over the top of your head. Metti la mano destra. Turn your head to the left as you lift your right foot off the floor. E gira la testa a sinistra quando stacchi il piede destro. Permette anche la spalla sinistra di muoversi indietro mentre giri la testa destra e la spalla destra viene avanti. Feel the ribs on the left side of your left hand and the twisting that's happening in the rib cage as you take your right elbow forward. Osserva la shoulder blade moving back. Alla torsione del lato sinistro mentre muovi e la spalla sinistra indietro. Walk normally. Cammina normalmente. As you're walking, feel what's happening throughout your body as you feel the contact of your right foot stepping on the ground. E man mano che cammini, feel what's happening throughout your body. Osserva stepping with the right foot on the ground. Cosa succede lungo tutto il corpo mentre appoggi il piede destro a terra. il movimento delle spalle. And think of the movement in your head and what kind of movement is taking place in your head. Can you feel some tendency for the head to be turning, bending? As clearer now what the head is doing in relation to the right foot than when you started. Pensa al movimento della testa e osserva se ruota, si inclina, se il movimento è più chiaro nella testa rispetto all'inizio. We do, yeah, we do up and down, we do all the things. Not doing more tonight with that. Now, that's a different take, yeah. Now, feel the difference between the two feet. How does the left foot feel as you walk compared to the right? Osserva ora la differenza tra due piedi, come la posizione del sinistro, il ginocchio, la gamba sinistra, rispetto al destro. And again, lie down on your back. E di nuovo stai a rest. Riposa. As you rest, feel the difference between the two sides of your body. E mentre riposi, osserva la differenza tra i due lati del corpo. The difference in sensation between the right foot and the left, right leg. La differenza di sensazioni tra il lato destro e sinistro, piede destro, sinistro. Where your head is in relationship to the two feet. Dove mi sta la testa in relazione a due piedi, se è un po' più spostato a destra o a sinistra. They're feeling they have been more over one foot than the other. Se maggiormente sopra un piede o l'altro. Thank you.